Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Oggi voglio partire con il ringraziamento a Edo Rockblock Rossi. È sempre grande il traino che fa ad Eclettica e vi accompagna fino alle 19 tutti i giorni, appunto all'inizio di questa trasmissione, che è una sorta di ponte, uno stacco fra il flusso della musica del giorno e le trasmissioni tematiche della sera. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, ma non ci sono solo io, c'è anche grande cinema e grande letteratura. Mi innamorai del calcio come mi sarei poi innamorato delle donne. Improvvisamente, inesplicabilmente, acriticamente, senza pensare al dolore o allo sconvolgimento che avrebbe portato con sé. Nel maggio del 68, una data significativa naturalmente, ma è tuttora più probabile che io pensi a Jeff Hassell piuttosto che a Parigi, poco dopo il mio 11° compleanno, mio padre mi chiese se mi sarebbe piaciuto andare con lui alla finale di Coppa fra West Brom ed Everton. Un collega gli aveva offerto un paio di biglietti. Gli dissi che il calcio non mi interessava, neppure la finale di Coppa, il che era vero, per quanto ne ero consapevole, ma rimasi comunque incollato alla televisione per l'intera partita. Alcune settimane più tardi guardai, incantato, l'incontro Manchester United-Benfica con mia mamma e alla fine di agosto mi alzai presto per sentire com'era andato lo United nella finale della Coppa Intercontinentale. Amavo Bobby Charlton e George Best. Non sapevo niente di Dennis Law, il terzo della Santissima Trinità che aveva saltato l'incontro con il Benfica a causa di un infortunio, con un ardore che mi aveva preso completamente di sorpresa. Durò 3 settimane, finché mio padre non mi portò a Highbury per la prima volta. Questo era l'incipit di Febbre a 90 di Nick Hornby. Slept for days. got emotional problems, man. You mean beyond pacifism? He's fragile. Very fragile. Huh? I did not know that. Are the same, but the ends have all changed. You carry on like you were some type of guy. Some things will never change. We went home to see our folks. We laughed and we told jokes. It was like we were young again. On that deathbed, our mother lay. Can't say, took all this to get us back together again. How long is this gonna last? You can't keep reliving your past, screwing over the ones that you love in the name of some new drug. So sometime. I know there's better brothers, but you're the only one that's mine. I know there's better brothers, but you're the only one that's mine. On his face, gonna give you up. Oh, that he sure as hell. But I take one look at him, and I know I never tell. So go raise another pint, rev up the engine, drive off in the night. See you somewhere, someplace, sometime. I know there's better brothers, but you're the only one that's mine. So go. Doors down, but I won't say a word. They can knock all of my doors down, but I won't say a word. 14 years have passed since that day, but still nothing has changed. Non so se qualcuno all'ascolto se lo ricorda, ma mesi fa, quando trasmisi per la prima volta Brother da parte dei Murdered by Death, dissi che non capivo come mai un gruppo del Midwest statunitense avesse intitolato un album in italiano, in bocca al lupo. Non c'erano assolutamente elementi per permettermi di capire quella cosa, ora ce li ho ed eccoli qua a condividerli. In pratica, tutto deriva da un corso di italiano seguito da un membro del gruppo. Un corso in cui si studiava Dante, l'inferno di Dante, inferno, purgatorio e paradiso, però l'inferno è quello che ha colpito di più e sul quale in pratica è stato costruito un concept album, quello da cui ci siamo ascoltati Brother, e album che ha preso il titolo da una delle espressioni idiomatiche italiane che a quel corso erano appunto state imparate. Invece prima di Brother ci eravamo ascoltati una nuova prova per un catalogo, quello della Home Sleep, che sta diventando sempre più internazionale. Piano Magic, formazione anglo-francese, un quintetto anglo-francese che esiste da una decina d'anni e che fa riferimento spesso agli anni 80, direi sempre, non spesso, sempre, fa riferimento agli anni 80 nelle sue prove discografiche, compresa questa Part Monster in uscita per Home Sleep appunto il 14 di maggio. E a confermare quanto appena detto, il produttore del disco è Guy Fixen, produttore di tante opere ma soprattutto di Loveless, dei My Bloody Valentine. Ed ora ritorniamo ad ascoltare i Pet con Cloud 9. Si erano separati nel 1968. Mio padre aveva incontrato un'altra e se n'era andato, e io vivevo con mia madre e mia sorella in una piccola villetta nelle Home Counties. Questo stato di cose era, in se stesso, abbastanza privo di importanza, sebbene non riesca a ricordare nessun altro nella mia classe senza un genitore. Gli anni 60 impiegarono altri 7-8 anni per percorrere la ventina di miglia dell'autostrada M4 che ci separavano da Londra. Ma la rottura aveva colpito tutti noi quattro in modi diversi, come le rotture sono solite fare. Ci furono, inevitabilmente, parecchie difficoltà che derivarono da questa nuova fase della vita familiare, anche se la più cruciale fu probabilmente la più banale, l'ordinario ma tuttavia spinoso problema del sabato pomeriggio allo zoo con un solo genitore. Spesso papà poteva venire a trovarci solo durante la settimana. In verità nessuno voleva restare in casa a guardare la TV, per ovvie ragioni, ma d'altra parte non c'era nessun altro posto dove un uomo potesse portare due bambini sotto i 12 anni. Normalmente andavamo tutti e tre in una città vicina o in uno degli hotel dell'aeroporto dove sedevamo in un ristorante freddo e ancora deserto e dove Jill e io mangiavamo sempre bistecca o pollo in un silenzio più o meno totale. I bambini non sono grandi conversatori a tavola, di regola, e in ogni caso noi eravamo abituati a mangiare con la TV accesa, mentre papà guardava. Deve averle pensate tutte nel cercare qualcos'altro da fare con noi, ma le possibilità, in una città satellite tra le 6:30 e le 9 di un lunedì sera, erano limitate. Quell'estate papà e io andammo per una settimana in un hotel vicino a Oxford dove, la sera, sedevamo in una sala da pranzo deserta dove io mangiavo sempre bistecca o pollo, in un silenzio più o meno totale. Dopo cena andavamo a guardare la TV con gli altri ospiti e papà beveva troppo. Le cose dovevano cambiare. Questo era ancora l'incipit di Febbre 90 di Nick Hornby. Thank you. I just got an informal report that a member of your team, Walter Solchak, drew a firearm during league play. If this is true, of course, it contravenes a number of the league's bylaws and also Article 27 of the league.